Kellogg, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Vedo che ogni tanto ci coglie la passione di immaginare il futuro. Oggi su Repubblica c'è un approfondimento su alcune proiezioni, come sarà l'uomo nel 100.000 dopo Cristo. La prima notizia interessante è che non saremo estinti come i dinosauri, poi ci si domanda, ci si chiede, si prefigura lo scenario di come saremo nel 100.000 dopo Cristo. Devo dire che già in passato molti hanno pensato e immaginato come potevamo essere noi nel 2000, che già sembrava una data invalicabile dell'umanità. Poi è passato il 2000, nemmeno ce ne siamo accorti, sembra di essere ancora negli anni 80 e siamo già nel 2000 e entriamo nel secondo decennio del 2000 e nemmeno ce ne siamo, è volato il tempo. E siamo vestiti come erano vestiti più o meno i nostri nonni negli anni 40, stesse giacchette, stessi pantaloni a cicca, stesse scarpe, più o meno è cambiato poco, vedete, non c'è stato questo salto immenso. Tutti immaginavamo che in questo futuro saremmo vissuti, che ne so, gli uomini con dei maglioncini fighetti bianchi a collo alto, con i colletti alla coreana, le donne tutte vestite di bianco, con i capelli cotonati, in asettici luoghi sempre tutti ricoperti di plastica bianca. E saremmo stati lì mangiandosi pillole, sorseggiando bibite innocue. Invece non è stato così. Beviamo birra, ruttiamo, le nostre strade fanno schifo, sono piene di spazzatura, sono esattamente come erano più o meno le strade nel 700 delle nostre città, non è cambiato molto. Quindi vedete, definire il futuro è sempre una affascinante ipotesi, un esercizio divertente, ma ci si prende poco. Qualcuno però ebbe delle intuizioni sul futuro che in realtà ispirarono innanzitutto tutto il racconto fantascientifico riguardo al futuro. La fantascienza probabilmente è lo strumento profetico che in realtà ha dato più certezze, se maggiormente prestata a definire quello che noi in realtà siamo. E in una particolare lettura, che è quella che ha ispirato, diciamo, il secondo filone della fantascienza, quello che vuole uomini e macchine, una sorta di terribile e tremebonda fratellanza in cui uomini e macchine si guardano, si scrutano, si imitano a vicenda e si giocano una sorta di predominio, che è tutto quel mondo definibile con un termine che oggi sembra desueto, quello di cyberpunk, che nasce da un certo tipo di letteratura, che vuole appunto il mondo organico messo a repentaglio dal mondo inorganico, dalla tecnologia, e entrambi si conquistano gli spazi. Ma quali spazi? Se io vi descrivo delle città del futuro come delle caotiche metropoli stratificate a più piani, in cui automobili e mezzi volano attraverso delle strade altissime e poi contemporaneamente ci sono dei bassi fondi popolati da etnie delle più disparate, soprattutto di taglio orientale. Voi immaginate subito Blade Runner, che è un immaginario che poi ha contaminato tutto il racconto del futuro. A sua volta Blade Runner veniva da un fumetto, e questa mattina la trasmissione la dedicheremo a un artista di fumetti che io ho molto amato, devo dire, in anni passati, poi me l'ero dimenticato, ma che è scomparso proprio nella giornata di domenica, e si tratta di Jean Giraud, più noto con lo pseudonimo di Moebius. Era un fantastico inventore di storie francese che ha inventato moltissimi personaggi. Chi è appassionato di fumetto d'autore se li ricorderà. Questa mattina cercheremo di far capire come gli immaginatori del futuro in realtà partono dal tratto di un disegnatore di fumetti. Vedremo come in realtà il cinema, alcune forme che non hanno nulla a che fare con la scienza, nemmeno con la letteratura con la L maiuscola, quella dei grandi narratori, abbia dato delle ipotesi sul futuro. E quante voi di queste ipotesi sul futuro avete fatto vostre? Come voi immaginate le vostre città? Come saranno nel futuro? Saranno identiche a quelle di oggi, o ci saranno delle mutazioni così fantastiche che oggi nemmeno abbiamo cervello per immaginarle? 800240024. In questo periodo la più preziosa e vitale sostanza dell'universo è il mélange, la spezia. Ho dimenticato di dirvelo. La spezia esiste su un solo pianeta nell'intero universo conosciuto. un arido e desolato pianeta con vasti deserti. Nascosta tra le rocce in queste zone desertiche vive una popolazione conosciuta come i Fremen, che attende, secondo un'antica profezia, l'avvento di un uomo, un messia, che li guiderà finalmente verso la vera libertà. Il pianeta è Arrakis, conosciuto anche come Dune. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Quindi siamo già entrati subito nel clima di questo futuro immaginato, Dune, che è tratto da un famosissimo romanzo che ebbe un successo enorme di Frank Herbert, e un film di fantascienza che comincia a tracciare alcune linee fondamentali di un mondo immaginato. Qui parla del 10.191, un mondo che in qualche modo fu innescato dall'immaginario di Moebius, poi fu tradito in parte dalla regia di Lynch, doveva esserci anche da lì, poi invece ci fu Sting, insomma, prese tutta un'altra piega più consona anche un po' alla piattezza di certi... Si voleva fare un film, questo disegnatore di fumetti, ispirato proprio a questo romanzo, e cominciò a lavorarci. Però i luoghi che già vengono evocati da questa voce di Virginia Madsen sono quelli che poi ritorneranno nel futuro distopico inventato da questi grandi autori, ovvero l'alternanza fra metropoli sempre più tentacolari, più sporche, paradossalmente piene di tecnologia, ma di tecnologia consunta, di cieli alla Gotham City, alternate ad ampi deserti, deserti in cui vola l'opterodattilo di Arzak, l'eroe di Moebius. C'è una frase molto, molto bella di Jodorowsky, suo complice, che ne descrive un po' l'immaginario, che dice: in una creazione artistica senza secondi fini la storia esiste già da qualche parte nell'universo, perché Moebius ha un tale livello tecnico che per disegnare non ha più bisogno di pensare. Da un punto di vista metafisico è il suo disegno che lo pensa, se si mettesse a controllarlo funzionerebbe meno bene, ovvero è medianicamente agito, è un intercettatore di mondi, un riproduttore, non più che un autore. Ecco, per dare qualche elemento agli ascoltatori, questo disegnatore di fumetti francese a un certo punto apre un sodalizio intellettuale, spirituale, di condivisione anche ideologica ma anche profonda con questo stranissimo regista cileno, Alexander Jodorowsky, che più che regista era un alchimista, un mistico, uno sciamano, ha fatto film incomprensibili, indecifrabili, Il topo, La montagna sacra, film fatti di nani, di mostri, di formule alchemiche, quello che in parte ha tentato di fare il cinema di Battiato, per non fare parallelismi, grande artista, ma nell'espressione cinematografica un cinema tutto infarcito di letture personalissime. Sono personaggi, artisti in vari campi dello scibile umano, che però hanno una visione eclettica della modernità, in cui ritornano presenti, vivaci, quelle che sono le antiche discipline sapienziali, l'alchimia, lo sciamanesimo, la possibilità di controllare la natura. Vedi che tutte le corrispondenze di questi futuri sono fatte di tecnologia che in realtà non ha quel nitore, quella pulizia, quel senso di asetticismo che si immaginava negli anni 60. Si immaginava che la tecnologia sarebbe stata come una grande cucina svedese, che era il miracolo della modernità, come una grande lavatrice, come una lavapiatti che rendeva tutto pulito e sterile, questa tecnologia che permetteva agli uomini di vivere vite tranquille. In realtà questo filone di lettura del futuro è un futuro inquinato, un futuro forte, un futuro corroso, un futuro che assomiglia molto alla nostra contemporaneità, in cui siamo tutti innestati in farci tecnologia. Viviamo con addosso delle appendici individuali che ci prolungano verso il mondo, e questo nessuno aveva immaginato. Nessuno immaginava che la rete, la comunicazione sarebbe stato il grande segno del futuro, che nessuno immaginava. Tutti immaginavano macchine volanti e robot intelligenti che ci avrebbero permesso di stare spaparacchiati su dei divani sospesi a mezz'aria, mangiandosi dei cibi assolutamente improbabili. Oggi c'è la ricerca del cibo naturale, della ricetta della nonna del contadino. C'è anche Gianni Morandi in televisione come 60 anni fa, insomma, cioè tutto è un'oscillazione schizofrenica fra l'arcaismo più becero e una tecnologia che non esalta nulla. 800240024, non è che tra voi c'è già chi ha questo potere profetico di immaginare il futuro? Provate a immaginarvi liberissimi, non avete nessun limite, come quando vi dissi immaginate la famiglia del futuro e nessuno poteva fare altro che immaginare la propria o quella dei propri genitori. Ma provate a immaginare la società, la città, il il modo di vivere il futuro. Cosa fareste questa mattina se voi vi foste svegliati fra 100.000 anni? E fra 100.000 anni cosa avreste fatto questa mattina? Come sareste vestiti? E cosa immaginereste di fare della vostra giornata? Quale colore avrebbe il cielo? Quale colore avrebbe il suolo che voi camminate e calpestate? Ma vorreste piedi per calpestarlo? E come vi muovereste? Come pensereste? Come amereste? Immaginate un po' questo futuro. Fate questo sforzo. Questa è Zora, addestrata per un corpo speciale di eliminazione extramondo. Sai, la bella e la bestia, e tutte e due. Il quarto lavoro in pelle è Pris. Modello base di piacere. Un articolo standard per i circoli militari nelle colonie spaziali. Progettati come copie degli esseri umani in ogni senso, fatta eccezione per le emozioni. Ma i progettisti stimarono che dopo qualche anno potevano sviluppare reazioni emotive proprie. Odio, amore, paura, rabbia, invidia. E li dotarono di un dispositivo limitante. Cioè, a dire? 4 anni di vita. Giuseppe Sansonda, questa è l'immagine del futuro da cui ancora tutti si ispirano, è Blade Runner. Sì, da Philip Dick. Una cosa che mi premeva dire in omaggio a Mebius è che spesso per degradare il cinema si dice è un fumettone. In realtà spesso il fumetto è stato molto più sottile e raffinato e incontenibile dal cinema, che tende sempre ad andarne un lieto fine, una ricomposizione. Io per esempio i più bei film che ho visto forse li ho visti nell'infanzia nei fumetti che ho letto in corto maltese. Fra questi c'era un incontro felicissimo fra Mebius e Stan Lee, l'americano che è Parabola, ovvero la storia del Silver Surfer, dell'Araldo di Galactus. Cioè, e l'incontro descrive proprio il mondo che evoca tu prima, Galactus, che è questa divinità che arriva sulla Terra, e lui è un divoratore di mondi, assume le sembianze che gli umani gli danno e cominciano ad adorarlo, e Silver Surfer invece richiama alla scelta individuale, al libero arbitrio, e quindi c'è questa sorta di scontro dialettico meraviglioso, disegnato da Mebius, sottratto da Mebius alla banalità seriale di tanta Marvel, ecco. Che infatti non riuscì mai a diventare un film questa storia, perché in realtà quello era un immaginario molto diverso, era molto più rarefatto, sottile, misterioso, basato sull'arcaismo, l'immaginario di Mebius, e la Marvel è l'ipervitaminico supereroe, è molto più semplice. Beh, anche Blade Runner viene da una storia di Mebius, una storia che lui ha disegnato a fumetti, The Long Tomorrow, un capolavoro del 76, e anche qui aveva immaginato per la prima volta queste città, le città del futuro. Sentiamo Gianfranco. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno a lei. Dicevo prima che io sono cresciuto con i due romanzi di Verne, Dalla Terra alla Luna e Le Leghe sotto i mari, ma quello di cui ho paura, ma per un futuro, è che l'eccessiva tecnologia che l'uomo sta portando l'uomo verso una distruzione, la tecnologia, gli impianti nucleari, tutto quello che probabilmente... La tecnologia gli sta salvando la vita in molti sensi anche all'uomo. Assolutamente, no, ma su questo sono perfettamente d'accordo, ma probabilmente l'eccesso di tecnologia potrebbe portarci a una distruzione. Però guardi, tutti i futuri possibili... Sì, sì, va paura, la lecita paura, la paura che alimenta molte persone, dove andremo a finire? Ma stamattina vi ho chiesto non di dire dove andremo a finire, ma di immaginare il futuro. Giulio Verne, fantastico inventore del futuro, aveva immaginato cose che non erano nemmeno percepibili nella sua epoca. Il sottomarino che va e vive sott'acqua come fosse una città, l'astronave, il missile che va verso la Luna, un immaginario fantastico che ebbe poi tutta conferma, profezie che furono tutte confermate. Ma ancora non è che si immaginasse tanto una città, una civiltà del futuro, ma si immaginava alcuni personaggi illuminati che potevano anticipare delle tecnologie, dei modi d'essere che l'umanità non conosceva sua mente. No, quello che invece vorrei che vi sforzaste, senza rifarvi troppo alle letture della fanciullezza, troppo arcaiche, come immaginereste il futuro? Quale sarà la vera chiave del domani? Guardate che 20 anni fa nessuno immaginava che oggi il futuro per noi è l'ipercomunicazione, la connessione, il fatto che siamo tutti collegati e ognuno diventa parte di un grande organismo pulsante che è la rete. Nessuno aveva immaginato. Tutti pensavano che il futuro sarebbe stato andare sulla Luna, conquistare altri mondi, colonizzare altri pianeti. Questo si pensava che fosse il futuro. Parlami di Rorschach. Ti andrebbe Walter? Tu continui a chiamarmi Walter. Tu non mi piaci. Oh, dici che io non ti piaccio. Va bene, e perché esattamente? Sei grasso, ricco, ragioni come un liberale. Dici che vuoi sapere di Rorschach? Ti racconterò di Rorschach. Seguivo un caso di rapimento. Blair Ross, bambina di 6 anni. Ero giovane allora, troppo morbido con i criminali. Li lasciavo vivere. Ruppi un braccio a uno per avere una soffiata. Mi disse dov'era la bambina scomparsa. Giuseppe, qua adesso in che tipo di immaginario ci stiamo muovendo? Questo è Watchmen, è un film che è stato tratto dal capolavoro della storia mondiale del fumetto, forse unanimemente riconosciuto, che è Watchmen, concepito dal genio di Alan Moore e disegnato magnificamente da Dave Gibbons. Questo personaggio in gioco è Rorschach, ovvero prende il nome dalle macchie omonime che servono come test psicologico. La sua maschera in latex è continuamente cangiante, assume nuove sembianze delle macchie stesse. Ed è una figura straordinaria perché rappresenta, Watchmen racconta la storia di questi supereroi in costume che in realtà, a parte uno di loro a causa di un esperimento nucleare, non hanno facoltà extraumane, sono degli uomini in costume, sono addirittura fuori legge da un certo punto in poi, negli anni 70 vengono messi fuori legge dal governo e sono figure che niccianamente, a forza di guardare dentro l'abisso, vengono scrutati internamente dall'abisso, cioè sono diventate delle patologie. Lui in carcere qui viene appunto osservato da questo psicanalista e se ne scoprono tutte le aberrazioni. Insomma, un altro dei grandi supereroi di questa saga è Ozymandias, che invece è l'imprenditore, quello che ha saputo trasformare il proprio ex eroismo in gadget, diventa una sorta di magnifico imprenditore. Racconta, ma tornando al discorso della città, racconta una New York in cui si alternano arcaismi, brutalità postmoderne e invece l'uso delle macchine elettriche. C'è una sorta di schizofrenia che è quella appunto immaginifica di tanti autori distopici che stiamo analizzando oggi. Nessuno vede come nella proiezione del futuro l'umanità che diventa buona. Il paradiso dei testimoni di Geova, con le belve ammanzite, con gli uomini che si vogliono bene e con i frutti della terra a disposizione degli uomini e la gente che fa i girotondi. L'anno che verrà di Lucio Dalla. Sì, tutti in posizione yoga illuminati e tutti si amano, ragazzi e ragazze che festeggiano con ghirlande di fiori. Non esiste, tutti vedono una criminalità organizzatissima sempre più potente, la totale caduta di ogni principio il etico. Caos. E vede sempre queste consorterie di buoni rinchiusi nelle tenebre, nascosti in luoghi mimetizzati, come se il bene fosse una ultimissima propaggine dell'umanità, in realtà il male vince. Questa è la visione ottimistica. Catacombale, il bene è catacombale. Sì. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io chiamo perché ho subito, credo come lei, il lutto per Jean Giraud. Sono un appassionato di fumetti da sempre. Ma c'è anche la sua età, diciamo che fa parte della sicuramente decadimento. Ci dispiace, ma è chiaro che più andiamo avanti negli anni, più i fabbricatori dei nostri sogni, dei nostri eroi se ne andranno prima la di cosa, noi. Mi stupiva che non so se sono io che non l'ho notato, nessuno di voi ha citato ancora Neuromante. Cosa che mi ha... Sì, però volevamo partire da Mebius, perché in qualche maniera rendergli omaggio. Certo, ci sono un'infinità, tutta la letteratura cyberpunk sarebbe una scaturigine grossissima, però ci piaceva far capire dal fumetto, viene considerato un gioco da ragazzi, una sottoletteratura, in realtà lì si è creato molto l'immaginario. È chiaro che poi Blade Runner nasce dal romanzo di Philip Dick, però l'immaginario del film come il colpo d'occhio nasce dal fumetto di Mebius. Ecco, lei aveva altro da aggiungere perché dobbiamo dare la linea? No, vabbè, volevo condividere questo lutto e ricordare che Mebius ha contribuito anche a un altro film della fantascienza mondiale che era Alien, certo. Si chiama Blade Runner, i primi disegni l'ha fatti lui di Alien, per qui il mostro, il mostro con la capocciona oblunga siluriforme se l'ha inventato lui. Che poi nel film si vede sempre molto poco, si immagina. Sì, ma anche Geiger, anche l'altro disegnatore, l'altro genio, ha contribuito molto a ad Alien. Diamo la linea all'informazione della borsa. Mi raccomando, cominciate a pensare, a raccontare, perché ancora nessuno l'ha fatto veramente, come voi immaginate il vostro futuro. Non fate riferimenti su immaginatori di futuro che già conosciamo, più o meno tutti conosciamo. Voi come li immaginereste? Fate uno sforzo. Melog, la realtà condivisa. Notte torrida da inferno, una lurida stanza in un lurido angolo di una lurida città. Poso gli occhi su una dea. Dice che mi vuole. Non sprecherò un secondo di più a chiedermi da quand'è che sono così fortunato. Ti voglio. Profuma come profumano gli angeli. La donna perfetta. La dea. Ti desidero. Goldie. Dice di chiamarsi Goldie. 800240024. Sto chiedendo disperatamente agli ascoltatori di immaginare il loro futuro. E loro, noi loro come esseri umani, quando noi non saremo più... Non faremo più parte di questa umanità, come sarà l'umanità? Ma non fra 3 anni, 4 anni, 10 anni, fra 10.000 anni, 20.000 anni, allargatevi. Una volta tanto che vi è data libertà di esprimervi liberamente, come lo immaginate il mondo? Una palla a tennis completamente desertificata, abitata soltanto da vermi. Oppure esattamente come oggi, una sorta di congelatore di umanità, che l'umanità rimane così come adesso, non cambia niente, stiamo bene, sì, basta, fermiamoci, non si inventa più nulla, si rimane tutti uguali, anche questo è un possibile futuro. Oppure un futuro in cui saremo tutti buoni e ci vorremmo tutti bene, futuro in cui saremo tutti neri, tutti gialli, tutti verdi, che ne so, improvvisamente... Esce un pigmento per colorare gli uomini diventano blu e comincia a esserci la moda, gli uomini blu come oggi. Ma scusate, se io avessi detto soltanto a una signora di 40 anni fa, guarda che le donne oggi andranno in giro con delle labbra che fanno paura, come una volta gli antropologi trovavano delle tribù sconosciute all'interno delle zone più inesplorate in cui c'erano le signore con le labbra a piattello e i signori con degli astucci fallici fino ai piedi. Dici, no, non è possibile, nel mondo civilizzato vediamo le donne con delle labbra gonfiate, sì, guardate, le vedrete, labbra gonfiate, tette di gomma, natiche finte, poi gli uomini quello che fanno nemmeno ve lo lascio immaginare. Cioè, no, non è possibile, stai scherzando. Invece questa è la nostra contemporaneità, perché non possono esserci gli uomini blu nel futuro. Giuseppe Sansone, Sin City invece è fantastico, è un film girato come fosse un fumetto. Esatto, tratto da Frank Miller con questo contesto da hard-boiled, survoltato, questo bianco e nero limaccioso e cupo in cui il rosso del sangue esplode improvviso, in cui gli uomini parlano con queste voci appunto rauche, da monologo interiore, appunto da hard-boiled, e Mickey Rourke ha una maschera sovrapposta alla sua maschera, quella che era l'esistenza dissoluta gli ha scolpito, e sta qui in questi interni angusti da motel. Quello che si recupera dall'immaginario di Frank Miller è questa sospensione da fumetto, questo respiro franto, questi 3 puntini quasi alla Céline, no? Di pausa continua, di attesa continua, che poi esplodono appunto in momenti di accecante violenza. Comunque qui, ecco, l'efferatezza è la barbarica, cifra, sì. Barbarica. Lui si vendica a un certo punto sul giovane serial killer fortissimo, gli taglia braccia e gambe, gli tira fuori gli intestini e lo fa mangiare lentamente dai cani, una cosa medievale. Sì, sì, perché poi ci sono Rodriguez e Tarantino che fanno parte, appunto Rodriguez è il regista, e poi c'è guest star come guest director Tarantino nell'ultimo. Ecco, vediamo se qualcuno degli ascoltatori riesce a superare questa barriera della pudicizia e immaginare senza limiti un futuro. Carlo. Dottor Nicoletti, buongiorno. Immagini il futuro, la prego. Non mi citi anche lei altri autori, che stanno tutti citando. Siamo un mondo citazionisti. Inventatevi qualcosa che non si sono inventati gli altri. Stavo parlando. Appunto, io so di certi esperimenti che sono stati fatti anni fa, sì, in America, dove l'umanità praticamente si perfezionerà su un mezzo di trasporto che sarà un po' come il sistema hovercraft, con dei bidoni attaccati alle spalle a propulsione, e si sposteranno così. Avevano immaginato anni 50, scusi, era in tutte le fiere di paese negli Stati Uniti, c'era l'omino volante che no, volava. Ma io ho visto dei documentari che sono attendibili, ah, dove proprio c'è un bidone, ripeto, ma perché il bidone nel futuro, che è una cosa così antica, proprio un bidone? No, perché avrà un sistema a propulsione come quello che si usa nell'Horcraft per il superamento delle barriere. Però più piccolo, portatile? Sì, piccolo, sarà un bidone, ma io l'ho già visto in un documentario, mi ricordo quando io ho 83 anni, ne ho vissute tante, in un documentario c'era proprio quest'uomo con delle leve, con dei piccoli bottoni, manovrava questo... Ma quello già esiste, non è il futuro, già esiste, sì, l'uomo col razzo individuale che si alza... A che altezza si colloca? Usciremo dai balconi, non dalle finestre. Ah, beh, si immagina. Arrivano le macchine. Come il finale di Miracolo a Milano, voleremo tutti come gli spazzini del finale di Miracolo a Milano, cioè un buongiorno è veramente un buongiorno. L'ho visto io questo, sì. Ho visto degli uomini che sono alzati, sono sì, ma io se volessi immaginare un futuro immaginerei... un volo senza necessariamente avere un bidone sulle spalle, un meccanismo antigravitazionale come già esiste in molta fantascienza, che si vola senza bisogno del bidone. Però Carlo vuole vedere il bidone. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Sì, io volevo dire, secondo appunto quello che si legge nelle Sacre Scritture, che Dio sta provvedendo un solo governo, per essere più precisi, l'ha provveduto da 2000 anni fa, con i santi, primi sono gli apostoli, che ha scelto dalla terra 144.000 esseri umani, sono ora angeli potenti. Allora, lei è un testimone di Geova? Sì, sono un testimone. Ah no, perché io, ecco, avevo citato prima la vostra letteratura, quegli opuscoli che date porta a porta, lì viene immaginato un futuro fantastico in cui, esatto, gli sì, uomini stanno insieme alle belve feroci, ci si vuole tutti bene, così immaginate voi il futuro? Ecco, ma la cosa più importante è che ci sarà un solo governo sulla terra, che sarà Cristo in forma angelica con i santi, che nessuno potrà né più corrompere, né uccidere, né rovesciare. E poi basta, dopo andrà molto lontano. Vabbè, questa è la vostra visione, ma è una visione... Non è la nostra, cioè ciò che è stato scritto nella Bibbia... Ah, sono state scritte tante cose, guardi, voi date, ognuno ha piena, totale, fantastica libertà di immaginare il proprio futuro. Se lei lo immagina così, ha già una visione sicura e definita del suo futuro, quindi non deve inventarsi altro, e non ci si può inventare nulla, a parte questo, è così già definito, sarà così. Io non ho motivo a mettere in dubbio la sua visione del futuro, vale la sua come vale quella del signore con i bidoni volanti, l'importante è che ne siate convinti. Stefano. Sì, buongiorno, sono in auto, sono di Perugia, adesso sono sulla Bretella di Roma. Io volevo dire, lei ha fatto la premessa che il futuro adesso è le comunicazioni, l'interscambio, il ganglio globale che ci tiene tutti uniti nell'elettronica. Questa però è la contemporaneità, sì, diciamo, è la sorpresa. Però, rispetto a secondo me, adesso io non dico 100.000 anni, perché è un futuro in cui potremmo, la razza umana potrebbe essere estinta. No, oggi dicono che ci saremo ancora invece, oggi non Però tra 300, 400, 500 anni sicuramente avremmo bisogno di tornare alla visione classica della fantascienza, cioè della colonizzazione ed esplorazione. Sicuramente avremo finito tutte le risorse della Terra, quindi dovremmo terraformare Marte, colonizzarlo, sfruttare la fascia degli asteroidi per i minerali preziosi, per quelli per la tecnologia, per sostenere la nostra tecnologia, perché sicuramente avremo succhiato tutto da questo pianeta. E quindi secondo me lo spazio sarà la soluzione, anche se adesso per motivi di costi, per motivi di metodi di propulsione ancora non innovativi, c'è stata una limatura dell'esplorazione dello spazio. È più o meno l'immaginario di Philip Dick. Sì, sì, in Total Recall, atto di forza. È giusto che è bene essere previdenti fin da adesso, perché insomma, sì, prepararsi bene, colonizzare insomma altri pianeti, quindi perché poco ci sarà da fare su questo mondo. Questo è anche non affrettarsi visione all'ultimo momento. Però mi piacerebbe qualcosa di più originale, non legato a filoni. Tullio, vediamo Tullio cosa può immaginare. Tullio, pronto? Sì, siamo in linea? Certo. Allora, immaginazione per immaginazione, un uomo che si determina le sensazioni del calore, quindi termicamente autoregolato, che non ha più bisogno né di condizionamento né più di riscaldamento. Un termostato biologico? un termostato biologico. E dove si mette? Dove si infila? Perché dovrebbe, bisognerebbe... Questo tra 200.000 anni lo sapremo. Ah, ecco, la risposta fra 200.000 anni. L'uomo termoregolante. La suspense un po' estrema. Almeno ha detto una cosa originale, sono contento. Ma questa penso, è la linea. Penso che sia una cosa che esca al di fuori da ogni immaginazione. No, perché non occorre più avere abiti, vestiti, non ci sarebbe più il pregiudizio che ci si veste per coprirsi. Gli animali, gli animali già hanno qualcosa del genere. Certo. Però, sì, però cani. Lui dice l'essere umano. Però l'essere che umano oggi si è sprovvisto. Giulio. Sì, eccomi qua. Buongiorno Nicoletti. Allora, volevo dire velocemente che secondo me la cinematografia ha dato una bella mano. E lei però come si immagina? Mi dica lei che mi interessa. Ma guarda, quello mio personale è sempre riferito a un film che ho visto molto tempo fa con Arnold Schwarzenegger, si intitolava Total Recall. Questo è l'atto di forza, l'ho citato ecco, adesso. Atto di forza, ecco. Dove diciamo questo grande network in fondo diceva a tutti cosa fare, a che ora fare, come farlo, eccetera, eccetera, dove poi c'erano vari combattimenti. Però io penso che più che immaginare uno scenario personale di come sarà il futuro, forse dovremmo chiederci come si evolveranno quelle che oggi chiamano le intelligenze artificiali, perché... Questa è una lo dicevo, l'eterno conflitto fra uomini e macchine è un altro filone della fantascienza del futuro, ma nessuno ha ancora detto il viaggio nel tempo. A me sembra invece due cose vorrei vedere prima di morire: il teletrasporto e il viaggio nel tempo, ma anche gli UFO, gli extraterrestri. Se vedessi queste tre cose potrei morire felice. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Più di 400 anni fa, un grande cittadino ha voluto imprimere per sempre nella nostra memoria il 5 novembre. La sua speranza, quella di ricordare al mondo che l'equità, la giustizia e la libertà sono più che parole, sono prospettive. Quindi, se non avete visto niente, se i crimini di questo governo vi rimangono ignoti, vi consiglio di lasciar passare inosservato il 5 novembre. Ma se vedete ciò che vedo io, se la pensate come la penso io, e se siete alla ricerca come lo sono io, vi chiedo di mettervi al mio fianco a un anno da questa notte, fuori dai cancelli del Parlamento, e insieme offriremo loro un 5 novembre che non verrà mai più dimenticato. 800240024, V come vendetta, V per vendetta, è anche un immaginario molto attuale, perché è diventato la maschera di V come vendetta, è diventato il simbolo degli hacker, del movimento Anonymous, di tutti quelli che vogliono sconfiggere il potere attraverso entrando nelle banche dati, dimostrando che non esistono luoghi invalicabili. Questo è una fettina di futuro immaginato che fa parte della nostra realtà. Un futuro vicino in realtà, perché parla dal 2005 al 2015, insomma un futuro in realtà molto prossimo, ideato da Alan Moore negli anni 80. Il fumetto anche qui era molto più gelido, molto più becchettiano, molto più raggelante rispetto all'enfasi un po' spettacolarizzata del film, che ovviamente annacqua nella banalizzazione tutto quanto per renderlo appunto spettacolare e fruibile e trasformarlo in un blockbuster. Qui questo eroe anarchico nascosto dietro la maschera di Guy Fawkes, che nel 1605 cercò di far saltare il Parlamento britannico, in realtà si contrappone a un mondo orwelliano. Ma tu pensa a cosa voleva dire citare il Grande Fratello prima del 2000, prima che diventasse una trasmissione televisiva, una citazione colta quasi da salotto, no? E anche un po'... Entriamo nel Grande Fratello. Sussurrata anche con toni tenui, adesso è diventata, cioè, è stata completamente desemantizzata, eppure siamo in un mondo sempre più vicino a quello, tutto sommato, in cui tutto è visivo, è riprodotto, è catodico, è pressurizzato in un flusso di elettroni, insomma. Sentiamo qualche ascoltatore, vedo che si sta cominciando a fare degli sforzi comunque. Sì, infatti quando diciamo Grande Fratello, agli inizi, agli albori di internet, si parlava del Grande Fratello e poi del panopticum di Beckham, diventeremo come tutti osserveranno tutti, non immaginando che in realtà ciò avrebbe dato una lussura inestinguibile all'umanità. Tutti vogliono essere osservati da tutti. Claudia, buongiorno. Buongiorno, ma più che tutti vogliono essere osservati, io penso che tutti vogliono il tempo e sarà così in futuro. Me l'ha fatto pensare un film che ho visto poco tempo fa che si chiama In Time, dove le persone avevano 25 anni e dovevano cercare di di rimanere in vita acquistando tempo lavorando. I ricchi cercavano di comprare il tempo, poi in effetti dai poveri accumulavano potere e vita. Cioè, tipo, lei mi vende 25 anni, lei mi vende 10 minuti della sua vita e diventano miei, vivo 10 minuti in più. Sì, c'erano i ricchi, avevano dei caricatori in cassaforte dove si caricavano gli anni quando ne avevano bisogno, e l'aspetto di tutti, come lei appunto diceva prima, queste persone sempre giovani, perché poi questa è un po' l'ambizione, vivere sempre e rimanere sempre giovani, si punta più o meno a questo. Noi invece, quindi, pensi, guardi, noi siamo in un momento in cui l'umanità si sta condannando a un'eterna vecchiaia. Ci sono delle vecchie e vecchie eterni. Sto vedendo in questi giorni la costante riapparizione, resumazione di Pippo Baudo in vari programmi televisivi. E mi rendo conto che un uomo che appartiene a un'altra epoca è come l'uomo bicentenario che viene scongelato. Entra in dei programmi televisivi, dice: questa è casa mia. L'ho visto l'altra sera in quella fantastica esplosione spazio-temporale nel programma di Luisella Costamagna. Pippo Baudo era lì e diceva: questa è casa mia, fermi, non vi muovete. E adesso tutta la gente guardava allibito. Ma ci saranno fra poco generazioni di persone che non sanno proprio chi è Pippo Baudo, cioè finisce quella generazione per la quale Pippo Baudo è un ricordo di infanzia. Ma sono 50 anni, però ci potevano dietro Gianni Morandi, ancora delle gemelle Kessler, mica detto che debbano morire queste persone, però fanno parte del nostro tessuto connettivo, quindi la sfumata del tempo e del progresso è molto più lenta di quello che immaginiamo. Marcello. Buongiorno a voi. Io vedo le tecnologie al servizio dell'uomo ancora per centinaia d'anni. Un esempio fantastico. Sì, sono viste in questo modo, non so, per i ricchi che saranno sempre più ricchi si creeranno satelliti artificiali dove i ricchi possono fare, non so, caccia grossa. Certo. Quindi già esiste. Tutti i loro desideri. Sì, esatto, ma su terreni al momento, ma li creeranno nello spazio. Per i poveri, per le masse che saranno sempre più abbindolati e cercheranno di raggiungere gli obiettivi dei ricchi, di essere di rendere possibile tutto, il sesso magari visto in una ottica più tecnologica, come quella vecchia barzelletta, sesso e champagne per i poveri, naturalmente, cioè gazzosa e atti autoreferenziali impuri, certo. Elena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire che tra 100.000 anni mi immagino un futuro in cui l'uomo in realtà cambierà, nel senso che da Homo sapiens diventeremo senza identità. Nasceremo o maschi o femmine, ma nel corso della nostra vita lunghissima potremo cambiare sesso, decidere di essere un po' maschi, un po' femmine. Ma questo già avviene in maniera massiccia nella nostra contemporaneità. Anche i ratti sì, possono farlo. Sì, certo. Alcuni. Ci assomiglieremo più agli animali o ai canguri che decidono in base a quale prole hanno di procreare maschi, femmine, ma anche cambiare colore della pelle. E ma dov'è il futuro? Scusi, esistono lettini a raggi UVA, esiste tutto questo? Non ci siamo, il futuro è d'altra parte. Impegnatevi e ritorneremo su questo tema. A domani. Melog, la realtà condivisa.